la ricordo più, devo leggerla. Allora. È fuori, eh? Non ha tempo. Tempo. Ma che cazzo dico? Cazzo dico. Vai. Niente in mente, affanculo. Ripeti. La prima ci vuole essere. Ripeti. Rifacciamo l'ultima volta. Tenetemi d'occhio, se c'è tanto fumo e zero arrosto per me a posto. Occhio al poliziotto, faccio gratis le serate perché non ho costo. Le multe non le pago perché non ha costo. Tenetemi d'occhio, se c'è tanto fumo e zero arrosto per me a posto. Occhio al poliziotto, faccio gratis le serate perché non ho costo. Le multe non le pago perché non ha costo. Quando passiamo la gente che ci annusa, non ho mai detto bitch perché qua non si usa. Se la bic è chiusa, mi trovi a fare picnic con bicchieri pieni di ichnusa. Guardo ossi, leggo riviste di gossip, seguo il tennis femminile, tenetemi posti. Sono PG, mami, c'ho quasi sempre gli occhi rossi, nelle mani un joystick e gioco coi mostri. A scuola non ho mai perso una lezione, ogni mio viaggio di istruzione è stato un viaggio di istruzione. Non faccio distinzione tra realtà e finzione, per ogni mia intenzione trovo un'obiezione. Questa è la situazione. Pausa, causa una serata scrausa. Al ballo bordo tipo in menopausa. C'è la nausea, dei rapper senza rabbia. In assenza di silenzio voglio assenso in aula. Dalle mie parti uno scandalo, sono un vandalo. Da quando faccio rap i rapper non mi parlano. Riempo i borderò, sapendo che nei locali che spacco gangbang sul palco poi non tornerò. Dalle mie parti uno scandalo, sono un vandalo. Da quando faccio rap i rapper non mi parlano. Riempo i borderò, sapendo che nei locali che spacco gangbang sul palco poi non tornerò. Tenetemi d'occhio, se c'è tanto fumo e zero arrosto per me a posto. Occhio al poliziotto, faccio gratis le serate perché non ho costo. Le multe non le pago perché non ha costo. Tenetemi d'occhio, se c'è tanto fumo e zero arrosto per me a posto. Occhio al poliziotto, faccio gratis le serate perché non ho costo. Le multe non le pago perché non ha costo. Vengo dalla moda del momento, la città della bara al centro della discussione, sono l'argomento. Ma non mi faccio fottere per fottere, la mia città è, non si fanno fottere i miei fra. Maschilista, convinto che contro ogni donna abbia finto. La rabbia non fingo, mi gioco tutto, la mia casa ogni sera al bingo. Fossano mano armata e ritornati in piazza vivo. Ci è nella targa come sempre marca male Marco. Carta canta, sogni non canta infame. Il peggio, mi pare il pezzo come il greggio sale. Faccio i conti, c'è chi piace sogni e ci sono i sordi normale. Riesco ancora a sopportare certa gente. Chi sente la mia musica si sente mio paziente. Per il presente non ho idee in mente, per il futuro niente. Magari faccio fuoco sulle mie tende. Dalle mie parti uno scandalo, sono un vandalo. Da quando faccio rap i rapper non mi parlano. Riempo i borderò, sapendo che nei locali che spacco gangbang sul palco poi non tornerò. Dalle mie parti uno scandalo, sono un vandalo. Da quando faccio rap i rapper non mi parlano. Riempo i borderò, sapendo che nei locali che spacco gangbang sul palco poi non tornerò. Tenetemi d'occhio, se c'è tanto fumo e zero arrosto per me a posto. Occhio al poliziotto, faccio gratis le serate perché non ho costo. Le multe non le pago perché non ha costo. Tenetemi d'occhio, se c'è tanto fumo e zero arrosto per me a posto. Occhio al poliziotto, faccio gratis le serate perché non ho costo. Le multe non le pago perché non ha costo. Per il presente non ho idee in mente, non lo so io. Per il presente non ho idee in mente. Non ho idee. Oh, guarda, sentimi ancora. Sento qua. Ripeti un po', va.